dappertutto. Capito? Sì, ho già capito già. Ma ormai già c'ho dato un baracchino di riserva, c'ho quello e l'FM500S che ce l'ho giù da mia sorella. Poi c'ho due antenne VEU da vendere, una è l'X30 che è corta, sarà lunga se no forse neanche 70 cm. Poi ce l'altra è una discona, quindi figurati tu. Ma la VEU è per il PMR? Vale tutti e due, fa pure io 144, 400 e qualcosa, la X30. Non è alta, è corta, mi sa, se no, 70 centimetri, non di più. Quella che avevo comprato io sarà neanche un metro, e c'ha tre radialini di acciaio, no? Ed è un bastoncino di plastica, amico, da dire di vici. Con un tappone nero, un tappino, beh, in punta. È un tubo di plastica, poi c'è il raccordo acciaioso dove ci avvicchi i tre radialini. Boh, è il PL a sta. Tutta libia, è però di plastica il tantello. Ma già va bene. Non è proprio per il PMR, ma già esce bene lo stesso. Sì, vabbè, ma c'ho l'altra io, c'ho la discona, c'ho per che fa V e U, che fa in PMR anche. C'è radiali, c'è lo stivo verticale, radiali orizzontali e radiali quelli a 35-40 gradi, mi sembra che sono. Ce l'ho in garage, ce l'ho quella. Devo provarla, vedere se funziona bene. Basta provarla, se funziona allora avrà funzionato. Io penso che già funziona, ma quella che c'ho io l'avevo pagata nuova, trasporto e tutto sulle 30 euro con il trasporto, se no costava ancora un bel di meno. Figurati tu. Adesso gli occhi la messo là, se me la va, gli do 30 euro, se la piglia anche uno, me la piglio tutti e due, quelle due antenne. Piglio la, tocco la X, quella che ho, la 500, ci metto la discona, me la proviamo se funziona bene. E tu fate le gare prima le frutti, no? Le provi e vedi se funzionano bene, ma penso che funzionino bene. Dati tu, Cecchetto! Sì, ci sono chiamato, Geppetto. Ebbene, il cibale ci stavi comprando, Luca, da Globo. E camperoso, non mi stavo comprando nulla, io non voglio niente. Io ce l'ho il camperoso, nubi nubi, con il sacco alla cowboy, proprio tutti ricamati, disegnati. Vedi, me la riporti una riebu. Da, troppa rientrato, aspetta, un attimino arrivo. Un po' mi senti? Sì, che ti ascolto. Vabbè, bene, mi senti? Segnale 5. Aspetta, guarda adesso. Troppa. Guarda un po' adesso. Sì. Ma strappa, non so perché. Ma non strappi nulla qua a me. Sei chiaro, cosa strappi? Guarda, aspetta. Adesso sei andato male davvero. Sei tutta, non sei a strappi. Sei a colpi, perché altro. Come mi avvicino il microfono? La bocca fa così. No, adesso stanno bene, bene. Ma dove sei a casa? Alla 25. Evidentemente siamo a quella di strada, perché adesso stai scendo bene. Evidentemente c'è problemi di massa, c'hai. Yes, problemi di massa. Sì, c'è problemi di massa, tutto lo dico io. Mettiti una puffa come si deve e vedrai che l'antenna esce bene. Non ti crea nessun problema. Magari sarà dalla massa quel microfono, così è Antonio. No, se si avvicina al microfono, di là picchi negativi, quindi fa e c'è la scena di segnale. Quelli sono problemi di massa più che altro. Dovrebbe agganciare la massa bene. in casa della 25, ci mettono insomma una staffetta dove una cosa del genere, in modo che possa avere massa, capito? Finché c'è un assorbimento minore, cioè l'apparecchio va bene, quando invece l'assorbimento maggiore, e quindi gli fa quel problema lì, capito? Cos'è? Dovrei metterci una staffa in ferro ben messa, in modo che gli faccia da massa e a posto, e non ha nessun problema. Ehi, Luca, senti, fai così, ma mi pare che la massa mi aveva attaccata al radiatore del termosifone, mi sembra, capito mi hai? Se lo segna voglia di venire qua, se prende l'antenna che gli ho costruito io, la piazza in una taffa in ferro e vedrà lui cosa può fare, cosa vuoi dire io? Quella che ho io funziona bene e non ha nessun problema. Ma io ci avevo una base magnetica nuova e poi l'ho venduta e l'ho provata lì qua in cucina, qui c'è una meraviglia, poi era di quelle buone quella base magnetica, c'aveva, si vedeva la massa perché c'era la cupola di protezione, era trasparente di vetro e vedevi tutto il circuito della massa come l'ha costruita dentro, no? Era bella, e me l'ha giubata in di là, ho usato un paio di volte, nuovo, capiato, dopo mi è caduta, sì, ma Antonello lì ne farà dall'antenna, o ne farà due dalla gadria, Sono andato a fare la pipì. Ah, a pipì c'è andato, a dici ma, la penna ne farà. Te lo disegni, c'è che c'avevo una base magnetica, l'avevo comprata, l'ho usata due volte e poi me l'ho venduta, ma sai quanto funzionava bene, per la 26, solo era troppo lungo lo stilo e mi ha giubbato in di là. Beh, se non esci più in macchina cosa te ne vai? Non te ne vai nulla, la stessa cosa, cioè, l'avrei fatta anche io. Perché me non te ne vai in macchina così, cioè una magnetica e non uscire in macchina cosa te ne vai? Non te ne vai nulla. A un certo punto, quindi, hai fatto bene a fare dei soldi. Io invece sono a piedi, quindi cosa faccio? Non me ne faccio niente io. A meno che non mi piglio un motorino, se ne piglio il motorino mi piglio una di quelle antenne in gomma. Di quelle tipo piscita come si usava una volta, metto quelle, il baracchino lo metto avanti e quando ne voglio mi metto le cuffiette con Vox e parlo. No, l'avevo comprata perché la volevo appoggiare nello scaffale dove in salone, no, e qualche volta parlare dal salone con la base magnetica invece di venire qua in cucina. Accendevo il salone e dalla scrivania e parlavo da lì, capito? Invece non l'ho mai fatto e allora me la giù in giù. Hai fatto, visto? E lo devi fare, cioè con te perché sono avere 50-50enne e non usare non te ne fai proprio niente la verità, non te ne fai in soldi, se no mi regali magari qualcuno che ne ha bisogno, intanto ormai se vado alla Napoletano se lo ti dà 5 euro, 10 euro, a un certo punto già riesco a fare una cosa, attacca di tiri in curvi quei soldi, preferisco dare a una persona che ha bisogno. No, infatti l'ho vendita, tanto non la adoperavo mai, era nuova anche la sua custodia, tutto quanto, però l'ho usata due volte qua in cucina e funzionava benissimo, e allora la giugno, vabbè, mi sembra l'avevo fatta sulle 30 euro, l'ho venduta al doppio, 60, e mi convinto. Beh, trovate il fesso che l'ha presa, quindi lo di più. Si è andato bene. E poi il fatto è questo, che gliel'ho venduta mai, la cazzo di recuperare da fare non li tratti mai, perché gli avevo dato anche un baracchino portatile, 40 canali, l'ha usato due o tre volte e non ne ha più usato, ma ha visto un PMR, e ha voluto un PMR, l'ha girato pure un PMR, entra ogni tanto così, ci sta due minuti e se ne va. Gente ormai abituata così, capito? Usa ogni tanto, più che altro usano internet, capito? A girare male più che altro, non per altro. Per carità. Il computer che preso ci avevo dato la mondezza. Lo usavo come lo usano adesso. A farsi i selfie, la notte quando vanno al bar, chi si mangia la pizza, chi si va a bere la birra, che va a troie, ce la fai, ma va a far culo, guarda. Cazzo, poi lo usano come si deve, il computer lo usano solo per fare i selfie, cazzo, per quello, scusa, è meglio che trovano una ragazza dura, la tavola, almeno c'hanno pure, lo pagano anche, cazzo. Io ho anche il computer, già lo uso, ogni tanto già lo metto in funzione, molte volte mi guardo qualche documentario al computer e anche cose se devo comprare, guardo su internet, c'ho anche il tablet, l'altro giorno l'ho fatto funzionare, era roba di 4 mesi, vemmo, e l'ho attaccato, ha caricato e funziona benissimo. Ho comprato due tablet, 40 euro l'uno, tutti e due sono lasciato col vetro da miei nipoti, in tempo di 4-5 mesi, non di più, quindi a un certo punto non prendo più niente, non me la frega niente. No, il mio è nuovo, dentro la scatola, anzi, c'ho anche la custodia in pelle che lo metti dentro lì, proprio per essere più riparato. Quello lì già è comodo, perché molte volte in campagna mi scendo quello invece scendermi il computer, che è più piccolo e fa delle stesse funzioni del computer, capito? Sì, che lo so, ma la fatti nulla a me. A me il computer è tablet proprio, manco il telefono non usavo più, né su Facebook, si è notato, manco su cosa, non me ne fotte più niente. Avere roba del genere, guarda, mi fa schifo, cazzo. Gente che si fa il selfie, chi si mangia le bistecche, chi va in cose in pizzeria, si mangia chi si costruisce la pizza, che quello e quell'altro, ma va, ve la vai. A un certo punto, scusa, me lo metto in canale, ti faccio vedere quanto ce l'ho lungo, quanto ce l'ho grosso, così a me la finita di rompere le balle. Ah, che così? Guardo io, però mi guardo anche quelli che fanno ridere i miei, vecchi di comico, Mudu, quello che si chiama Mudu, che fa ridere, che ci veste anche da carabiniere, dice anche barbellette, e quelle cose così già me le guardo, mi ci sono dalle risate certe cose che fa. Vabbè, quello già me ne manda a cosa a me. Le filmate lì me li manda, Roberto Belligabelli me li manda, me li guardo e poi li elimino, non è che posso stare cazzo con quella roba lì dentro al telefonino, che lo usano i miei nipoti, no? Cazzo con voi bisogna maniaco. Anche a me me ne mandano un bel, mi Luca Flipper me ne manda, un altro amico mio Costanzo. All'ordine del giorno me ne manda e tutti i calendari, Mila Sari mi ha mandato il calendario, il calendario erano tutti femmini vecchi, tutti tanti nudi, ma vecchi e mi, ed erano tutte nude come le giovani, ed era gennaio, febbraio, marzo, tutto l'anno qui, ogni figura era un mese, però erano vecchi e mi queste. Cosa deve fare le vecchie? Non è meglio le giovani, ragazzi. Ci sono i 16-17 anni, si fanno i selfie. No, non è una tangente vera. Certo. La verità è diventato un coso, è diventato. Meglio niente, guarda. Infatti che ci calendari andare per all'ospizio, andare per... Vero Luca? Oh Luca! Per carità! No, mi pare che mi aveva cancellato, mi sembra che non ce l'ho più. Se non già te l'avrei mandato, ho mandato se lo... No, già me l'hai mandato, non ti preoccupare. Ma, però, per carità, guarda... C'è troppo casino, c'è in queste cose qua, capito? Non ne vale neanche più la pena controllare nulla. Infatti conti magari che pigliano, come c'è il telefonino, piglia mio nipote che c'ha 6 anni, tu immaginati se va, non so se è meglio dei meme, se va lì nelle fotografie, cazzo si guarda questa cosa qua, ci faccio figura di merda io. Beh, quello sì, ma è l'occhio malizio, magari un piglia un pizzino, un rughe, nonno che c'ho. Oh, nonno zio, più che altro zio. Dai, avanti a vero, la porta lo hai aperto là. Avanti a vero. Aiuto, parla, entra più là, Luca. Non sono io, quello è un magone, io non sono magone. E avanti il magone. Aiuto che mi devo mangiare l'amaretto io. Riprendi tu Luca, mangiando sta? No, grazie, ero in campagna e tu ti acuti il fumo, intanto sto facendo la tua, sentiamo dopo. Ehi, me l'ho immaginato che eri in campagna. Ehi, va bene, e chi te le frega le spalle? Se vuoi ti mando Antone. Sta arrivando Pomponi, ho detto. Hai visto il rubirubero che te l'ho mandato? Luca, Pomponio, eia. Beh, mi ascolti adesso? Sì, anche il bivice. Adesso cambiato parecchio, questo è il 2009. C'era una lì che non lo facevo funzionare. Bene, va. Sì, prova, parla a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, che funziona. 3009 è quello. Questo è il 3009. Ma non te l'avevi venduta, adesso te lo stavi vendendo l'altra volta. È ancora lì. Allora, il 3009 gli ho tolto la mascherina, gli ho messo quella delle 34 canali. E invece quella con le 4000 gli ho messo quella del 3009. E perché? Perché è molto meglio, perché il 2009 è diventato con le 4000, cioè era con le 4000. Io adesso ho la maschina del 2009 e adesso c'ha l'eco in più di fabbrica. Ma il 2009? Allora ti spiego, il 2009 originale, io ho messo la mascherina in pratica del Tornado 34S, hai capito? Tutto lì. Invece la mascherina del 2009 che ho conservato, l'ho messo in pratica, ho tolto la mascherina del Connex 4000 e ci ho messo quella del 2009, hai capito? E vabbè, ma già funzionava, ma sì, più bella è perché la mascherina. Certo che è più bella. Oh, ehi, quando passo me lo fai vedere. Te la faccio vedere quando passi, non c'è problema per quello. L'unica cosa non posso modificare la 87 come mascherina, perché c'è solo quella. E quindi, adesso da un giorno non usavo più il 2009. Quindi funziona bene, sì, l'amplificazione è buona, alta, massa, com'è? Media, anzi aspetta, è la media, adesso è alta. Ma io se l'altro ti sento bene. Meglio così, sono contento. Ehi, si sente abbastanza bene. No, io qui il bifi mi sembra l'avevo tolto, non è o no? bipi non è adesso. Mi sento c'aveva i bipi quando qua tottoni, una volta. No, in questa radio qua, nel cos'è, il 7.090 non vivevo. La radio l'ultima ne avevo comprato. C'era il bipi, ma ne l'avevo levato. Vabbè, non è cambi molto me, questa. Comunque, va bene, non è nessun problema. Ehi, è bella questa la radio, c'è il display grande, c'è frequenzimetro, c'è tutto, tutti i tastini bianchi ci sono, è bella come radio questa. È bella sì, no, è brutta no. Che c'è la radio bella, già l'hai vista, c'è un po' di banda. L'ho usato sino a 2 mesi e poi l'ho messo in nuovo in scatola, l'ha visto vai? E fa 4 bande, c'ha il frequenzimetro, c'ha 2 attacchi d'antenna dietro, c'ha quello per la V e per la U e quello per la 27, c'è per, no, 27 HF, quindi fa anche 27. E l'ho messo tutto in scatola, intanto non lo stavo usando, cosa cazzo lo dovevo fare qua? A riempirsi di polvere. L'ho messo in scatola e l'ho conservato. Il lineale, il quello da 100 watt ce l'ho da una parte, le 6 valvole delle, che mi sono conservate del BV131 ce le ho qua, quindi quando voglio mi prendo un BV131 anche senza valvole, le valvole di acciaio ne ho 6, e se non mi piglio quello mi piglio BV2001 senza valvole. E va a voler ce li ho, c'ho anche la pilota, la L34, quella per il giambalisto, nel caso dovesse capitarmi un'offerta, per dire, di un lineale, che ci vogliono quel tipo di valore, quindi non ci rimetto niente, anzi non pago neanche la metà, se no pagherò 50-60 euro o di più. Aspetta che ti mando la foto su WhatsApp, te la mando su Messenger da Facebook e gli ho fatto la foto. No, sono tutti staccati uno e l'altro, ho staccato tutto, non dammi niente perché non ho fatto più la ricarica, capito? Sia nel telefonino sia nel computer non, neanche sto usando io. Lo usa mia nipote, quindi no, cioè non me ne fotte nulla. Al limite quando fai la fotografia, quando ci vediamo la vediamo assieme. Per quello già non c'è problema. Ehi, aspetta che oramai l'ho impostato, la mando a Luca là. Mandami i messaggi. Mandami un messaggio al telefonino normale, mi mandi la foto, che la vedo lo stesso me. Non c'è bisogno di altre cose, di messenger. Hai capito? Siccome ho cambiato telefono, quello c'era il coso, tutto, messenger, YouTube, tutto era per dire. Quello si è rotto il vetro e quindi io l'ho lasciato lasciato così com'era a un certo punto, non l'ho più caricato, cosa cazzo me ne frega fare, a un certo punto non ne faccio niente. Aspetta, sul messaggio te lo sto provando a mandare. Ehi, sul messaggio sì che glielo vedo, quello lo stesso. Ma già, mandami sul messaggio e poi io già ti mando il qualche foto, magari te la faccio e te la mando sul messaggio lo stesso. Quello non è un problema. Attore, arrivato sì. Ma lo so, aspetta, il telefono ce l'ho in salone. Aspetta, 5 minuti che guardo. Prova a vedere. Attore, non me lo fa mandare la foto. No, aspetta un secondo. Foto non me ne fa mandare. Aspetta un secondo. Sì, su Messenger l'ho mandato, ma se non ce l'hai. No, Messenger non ce l'ho. Messaggio normale di fare, basta. Hai capito? Aspetta un secondo. Sì, ma messaggio normale mi dice che il foto non ne manda, solo il messaggio. Capito mi hai? capito più, aspetta un secondo. Cazzo, c'è un posso filmarti, fermi da te, cazzo, c'è un altro telefono. Non è stato nemmeno di carico, me li scarico. A Luca l'ho mandato. A Luca Fripe e a Luca Manicumio. Ma faccio che mai degli occhi, qua non c'è, qua non c'è. Non c'è. Ti è arrivato niente, sì. Penso di sì. E dove? Al telefono adesso, 17:34. Ma su WhatsApp o su Messenger? Messaggi normali, non Messenger. Invia messaggio. Normale, come se inviare un messaggio, puoi anche inviare le foto lì. Ma io ho provato e non me ne fa mandare. Aspetta a vedere. Ok. Attento, gufo, che ci facendo c'è? Ebbene, Luca, morta sì. Luca. Mica già ci sono, capito mi hai? Luca, era al telefono. Popponia, tra 5 minuti ci sentiamo. Hai PMR, LPD, grazie. Aspetta che sono in ufficio. Ebbene, Luca, qual è la sissi? È sparito. Dove l'ho sentito chiamando? Io non l'ho più inteso. La gente giù a me, era in ufficio. Ma sono a quattro che era in ufficio. E mela. Non c'è nessun altro, fuori chissà dove. Gio Maria si è abbandonato a Barbara d'Urso. Bella, M. La Giuita, Giuita, la Cari senza trucco, un cadavere, bocca e fea, vecchia gadrosa, tutta bumposa, Capita, ma mi è accorcipito davvero. Sì, guarda, adesso la casa che c'ha, ma c'è la campagna con casa, perché fare gli inviti, devo ringraziare che ancora lì lavorando a leccare il culo ai figli di Berlusconi. Il giorno dopo siamo un po' normali, i figli di Berlusconi ha finito di a modo che non se ne vado a 7 a lavorare, hai capito? Ma quella già ce li hai soldi ammacciati, non ti preoccupare, quella può campare anche senza lavorare. Lei lavora perché poi un indomani ha da raggiungere a Ruviglione, non hai compreso, è per quello. Beata lei, beata proprio lei. E se ne approfitta fissamente a chi dura che c'ha tutta questa popolarità, sovina e dai picca e ammaccia, non hai compreso, fa la macca. Ce l'ha, prende dei soldi a meno se li guadagna li mette la parte, tanto non è sposata, è cornuta e anche li votate apposta. Ma oramai non era fucchino da risa, chi sa che si può un uomo rubare e virare, non è compreso, ma... No, se ti ricordi la innamorata del... di cosa innamorata? Di quello santo che faceva il medico, te lo ricordi? Il dottor Joe. Già me lo ricordo, cioè. Ma quella gente così mi... Quando sono in gana gli ragazzi li rubessero da brincarsi e poi ognuno per la sua strada. Quella gente della TV sono tutti così. Meno male che quello c'è la malta cagata la giorno prima, gliel'ha detto. Dice a me non me ne frega niente, dice. Mi hai detto di te. Il dottor vedo a me me ne frega solo di quella che mi sono innamorata, basta. Mi fidanzo, mi sposo e va a far culo da lì. E allora, quella gente così, è fatta così quella gente lì, come gli attori, hai visto adesso? Tutte quelle attrici che non stanno più chiamando a fare film, agli attori principali oppure stanno denunciando agli organizzatori del cinema, dei film, che se li hanno violentati così e così, prima si goccali, poi li denunciano. Adesso ne è fatto questa pratica, come Dario Argento e compagnia bella. Ma lo sapevo come diceva prima, quando se tu vuoi fare carriera, devi avere il culo. È sempre stato così. Fino a... Ma prima non si sentivano queste cose, capito? Guida della gufa da lunghi d'impresario, guida lunghi l'altro impresario. Adesso siccome non le chiamano più nessuno, perché i film li fanno anche digitale, con computer e tutto, dunque ne fanno a meno di questa gente così. E allora va recuperati in aliso di nuccelli, no? Si sente che si danno i violentati, quando sono cadenti. Cazzo in brimba. Sì, già lo so, quindi va bene. Allora, dopo, già. Tutte quelle che hanno fatto Miss Italia sono tutte state violentate, già lo sai, già la prima. Prima di arrivare lì, come si chiama, è tutto già programmato. Hai capito? Vuoi essere la prima, devi dare il culo, se no niente da fare. E allora, tutti sono uccisi, già. Fare la carriera devi aprire i gusci. Luca, capita, Magnelli deve assumi, Antone. È a colui che mangia bistecche di cavallo tutti i giorni. Oggi primo non ha giubato, ho fatto in forno un paio di orate con le passate e una teglia con melanzane e funghi a tunna in forno, niente primo oggi, poi formaggio, parmigiano, salsiccia e l'insalata e trubarettaggio. Altro è mangiato. Oggi niente minestra. Poco fa mi ha mangiato un biscottino di quelli con la marmellata fatta in casa. Sardi. E un amaretto morbido. E la banana mangiata te l'ha? No, ma ti ho mangiato un mandarino, due mandarini verdi, senza l'osso. Clementini, Zoan. Male hai fatto, Sono le banane che ci piacciono. E già abilati no, che le banane, ma se questi la abilati alle mani, e sono quelli ancora. Chi ci sono tutti a ingutti per Antone? Quelle sono banane sante, sono dure come una balla. E allora, quelle vogliono lavorarsi prima, c'è un marito. Così è. Ma tu gli sai lavorare bene, no? Quelle bisogna lavorarle che cucinano, ancora sono vecchie. Quelle bisogna vecchie, così durano di più. Hai sedi, Antone? Adesso per le banane si usa la crema. Visto, ci sono certi siti che vendono la crema a 35 euro che ti fa fare la banana col fiore, hai capito, con la pianta. Allora sì, già la prendi buona, già se secondo me che mi prendi, vai in urologia per 4-5 anni e vai. Ma c'è uno schifo, abbattiti, ho visto uno spettatore di un programma di quegli chef, i cuochi, ma sai cosa ha fatto? Ha fatto l'insalata da bere, sa con di giù, i fuselli, la pasta in bianco, i fuselli, la gente in sumaco da un inavugato, si stanno inventando di tutto pur di uccidere in televisore. Ma se mi mangio la pasta tutta con l'insalata, tutta misciata, ad avelli, bumati, e la pasta asciutta. E cosa è? Mangia a fare un buco, beh, ma l'ha mangiato anche voi, si chiama, hai fatto la bocciata che non li vuoi mangiare, allora altri piatti. No, io se permetti, prima mi mangio la pasta asciutta, la bellissima me la posso mangiare con una bella vetina accompagnata poi con l'insalata, mista, pomodori, salata verde, e sfionda, ma non che mi mangio tutto misciato, metterlo da bocco, l'avanzo, tutto misciato, pucci, quello è tutto papà, faccio in televisore, io se l'avevo cucciuto da un botto anche sul chef. Sei volgare, cazzo, boh, attore. Guarda che lo chef inventa, hai capito, può fare anche la pasta con la cacca anzi no, non con la cacca, fa poco fa la pasta con sai con cosa, e ce la mangeremo fra poco, con i moscerini come fanno in India, capito, cavallette, immaginati tu, gloriaia, per carità, se continuiamo così vedrai mangeremo moscerini, lave di cosa, di tutto mangeremo, merda, mi dico che non mangiamo gli altri, la mangiamo noi. Così è, grazie. E più le banane, che sono pericolose, non ti fanno male. Avanti. Ecco, adesso per dirtene una, Antonello, la capricciosa, tu, secondo te, com'è la capricciosa, la pizza? È prosciutto cotto, la mozzarella, il pomodoro, le olive, salsiccia e funghi, quella per me è una capricciosa, così è. Mi sembra che capri di acciughe, se non mi ricordo bene, la capricciosa. Allora io una che l'ha passata, ma ti ho detto una capricciosa. Io mi aspettavo la capricciosa come ti ho detto a te adesso, in genere è così. Cazzo, ma ragazza capricciosa che non la prevede, passato un riso, acciughe, insalata, e cosa cazzo è che non vede, di tutto vede. Ma di te che sa cos'è, una capricciosa, noi che forse abbiamo imbagliato, oggi è pensato no, secondo me c'è una capricciosa, faceva schifo. Avanzo di altri bici tutti in vita da una terza vita, che ci chiami per i bici e non ho mangiato, non ci ho lasciato tutto, ma ci ho mangiato la bumata con la mozzarella che vela e la pizza, l'umane della pizza. Tu hai preso la pizza da quello, l'era della pizza di punti che ci mette la verdura in mezzo, da lui l'hai comprata senz'altro. No, qui vicino a casa qui l'ho presa, no, non è più, è già mi vedi Bibbia, quello per non andare a fargli un casino, ti avrei andato con i vita a faccia, a vedere cosa cazzo di pizza è la pizza, ma di là tu mi dici, per carità. Ehi, vabbè, non potrei sbagliare, la salsiccia è quello che è totalmente diversa dalla capricciosa, è totalmente diversa, è veramente abbiato un'altra cosa, e magari da tu a quell'altro, quindi a volte capita, lo sai che ci sono gli autisti sossolati. No, guarda che io in genere mi prendo sempre la capricciosa, chi là se non mi piace, e ho la capricciosa o il calzone, quella tutta chiusa, e in genere ci trovo dentro il prosciutto cotto, con la mozzarella, il pomodoro, le olive, la salsiccia e i funghi, e qualche volta i capperi e anche le acciughe, ma no, l'insalata, le patate fritte, ma non è un servizio. No, patate, le patate non c'entrano niente. Non ho capito. Ho preparato, non c'è stato niente, evidentemente qualcuno ha lasciato una pizza italiana, qualcosa del genere. Poi c'è la pizza vegana, già lo sai adesso. Ognuno si sceglie la sua, evidentemente l'ha passata a te e quello è quella tua l'ha passata a un altro. Ma faceva schifo, puccia salirizio. Che se si fa di fuggire tutte le iglesie che ci ha fatto, ha ricominciato a se ne fuggire. Evidentemente là quel pizzaiolo che c'era, non c'è più, se ne sarà andato e va un fucaccio, una ma fino a buona fannuta. Vai Gio Mari, e tu come te la conosci la capricciosa? No, io non la conosco, non le conosci pizze io, no. Perché io no, a me non mi piacciono le pizze, capito? Perché no, qualche volta la mangio così, ma mangio più spesso quando giro di pizza, perché insomma noi andavamo lì a Ustica, mia nipote, che loro fanno questa attività, fanno il giro di pizza e così già la mangio, ma diversamente non le mangio pizza, capito? Sicché non li conosco nemmeno le qualità delle pizze, capito? Io già le conosco, però quella faceva proprio schifo. Non ne voglio più dare il suo bucaccio, non saranno. Però dice, cazzo di chi ma dice, chi c'è una capricciosa, a me muove e vuole un passato briccio. E lì sarà la roba a macchina. Cucci, che schifo. E vabbè. Allora c'è chiamato Luca ed è sparito. E in cosa? Il PMR un Claudio è. Chissà non è la pizza capricciosa, chissà è la pizza schifosa, capito? Grazie. Ehi, PMR, già l'ho sentito, l'ho accesa lì. Così la fai lì, fini, la usa la giubilata. L'ultima volta me la giubilata, gli venì un trenino, bella, è proprio bella, dorata, colaziosa. Proprio spessa, non grossa grossa, insomma, già era bella brutta, e invece dice di lavarsi fini, fare la sola di una volta. No, lo so, non riconosce a dire la verità, comunque c'è un tipo che mettono le patate fritte, e l'ho mangiata io quella lì. Mangio perché ho le patate fritte, capito? È un bel puro limone, la cosa, la... come si chiama? Da Daniele, ci lava bricomente. L'ho mangiata lì, ma sono buone quelle patate fritte. A me non mi piace con un patato, no, cazzo, se voglio mangiare patato, mangio un patato, non la pizza con un patato. La maniera più buona invece quando c'è il prosciutto cotto, poi i funghi, le olive nere, qualche acciughetta, la salsiccia e un bonbon qua fatta così e tutta c'è appena infurrata, amica, calda, buona rita, ma no di Samarita. Ma io quando esci magari mi piace, io faccio un risotto alla pescatora e dopo il caramai e patate fritte, facciamo per secondo, di solito facciamo così noi, oppure anche i spaghetti, però di solito prendo sempre il riso io, perché a me il riso alla pescatora piace parecchio, capito? E per il secondo patate fritte con il caramai, capito? Avanti, Atole. Grazie. Ehi. Mi ascolti, guarda un po' 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso l'ultimo pezzo si è uscito, all'inizio no, riprova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso sono con la guarda 87, mi. Sto funzionando, ho visto. Una cazzata. coraggio, non te la staccare a bocca al microfono. Il microfono mi sta pesi quasi 60 centimetri, mi dico, dove parlo io. Sto con la faccia a bocca a terra, non sono l'altro. Quindi figurati tu. Che sta facendo adesso? Come lo senti tu, Giovanni? Ehi, adesso lo sento bene. Ma col gala sì, attore. No, sono qualcosa, con la 87, col papà mi ha fatto un difetto, è sparito il segnale e ci avevo mai trovato, si è accorto Graziano. Allora, ho preso l'aperto, ho toccato lo stampato appena appena avevo ripartito. Quindi il figlio ha detto, adesso è a posto. Mi ho lasciato il microfono amplificato, sto provando un po' a terra, amico. Distante quasi un metro, la voce bassa, perché lo sai che io ho la voce bassa, e non so se hanno usato il metro. Sentore, lo stavo usando quasi un'oretta fa. Ma quello di Graziano, quello che stai parlando era? Di Graziano? No, non è mica di Graziano questo qua. Io ho pensato fosse quello di Graziano, capito? Forse l'ho capito male. Insomma, già bambinino, no, ogni tanto manca, però appena appena, mentre che parli ogni tanto manca. Vabbè, ricontro la condensa, ma adesso va bene, tu grazie a come mi ascolti, bene. Bene, adesso sei mancato, dillo grazie. Ehi, ogni tanto manca. Guarda, adesso 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questa è la condensa, amico, della stufa. Gli slide del microfono, adesso va bene? Però ogni tanto manca lo stesso, vero Giovanni? Infatti, sempre, ogni tanto lo fa, Ogni tanto manca, però se lo ripiglia subito, Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso va bene? Adesso non è mancato. Ecco, ok, allora va bene. Ah, sta funzionando bene. Quando metto la stufa qui, questa camera, quando apro la finestra poi mi attacco la stufa, fa la condensa. E quindi crea problemi l'apparecchio. Il Saturno invece è a posto, quello è anche il 2009 addirittura. Funzionano tutti bene. Comunque sembra, non è perfetta la radio questa qua, perché sembra che ci abbia qualche cosa mangiando e parlando, capito? E fa un effetto del genere, non è chiara, pulita, capito? Perché è troppo forte, adesso va meglio, ho abbassato il microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso sei tu, adesso va bene. È troppo forte, questo microfono per la 87 è troppo forte. Adesso andare, aspetta che richiudo il coperchio e a posto. E attacco il nuovo saturnetto. Però comunque il saturnetto, male infatti ha preso quello che volevo dare io. Cazzo, era nuovo quell'apparecchio, un peccato, cazzo. Io lo volevo dare a te, però dice che era troppo, quindi che meno male già l'ho dato io. E quello è stato fortunato, perché no, era nuovo, cazzo. Quale? Uno, l'ultimo che ho venduto di Saturnetto, era nuovo. E invece Antonello non voleva spendere più di 200, e sicché non l'ha affiliato. Ma quello che c'è Antonello è Saturnetto, con quello come ce l'avevo io, gliel'ha dato Bombolo. Ma lo so che ce l'ha dato lui. Lo conoscevo prima d'oggi quell'apparecchio, capito? Era di Giuseppe anche quell'apparecchio, per immaginare. E ha passato almeno 5 scene, ha passato di padrone quell'apparecchio. Per cui, no, ma va bene ugualmente, dai, va bene. Però ripeto, quello lì era più nuovo, era nuovo. Io quello che Santonello lo conosco benissimo perché l'ho visto e un bel di forte, capito? Ho parlato anche con quell'apparecchio. Ma però gli ho detto che già è buono, e non volevo, così ma di Dio non l'ho visto, quello lì, nel mare, non mi ricordo se quando sono salito ce l'aveva già. Boh. No, nuovo c'è, nuovo. Sono sposato neanche 15 euro di trimmer lì. Cioè, solamente la cambiata di trimmer, basta. Ho cambiato solo quello e non ho fatto altro. E l'apparecchio funziona benissimo, non ha nessun problema. Come si chiama, gli strumenti funzionano bene, tutto il resto del tanto, non c'è nessun problema. Io non volevo spendere 200 e passa euro, 150 euro per un Saturnet, non esiste, capito? Io ho detto, io mio avevo venduto quello che avevo io, a Natalino, mi ha fatto la testa a cacca, avevo venduto mi sembra 100 e qualche cosa, non di più. Quindi figurati tu, non è che ballava come si chiama, dovevo pagarmi la bolletta, gliel'ho venduto così, come l'ho pagato io, l'ho rinviato a lui. Ma 250 euro mi è sembrato un pochettino troppo, una cosa del genere. Ho speso 150, ne ho speso 20 per tra trimmer, pulizie e cose varie, perché l'ho portato a pulire, però è nuovo, nuovo, nuovo, se tu lo vedi dentro, è nuovo, fiammante, nuovo, non c'ha una pecca, è perfetto. Pazienza, che Maria, non ci posso fare niente. Ho voluto risparmiare, l'avresti fatto anche tu. Quante cose hai comprato tu dalla Germania per risparmiare? Eppure sono andate bene. Quindi io ho voluto risparmiare vaffan cuffia. Perché poi a fare che già ne ho, già lo sai, c'ho questo, c'ho la 87, c'ho le 2009, c'ho le Collex 4000, ne ho apparati, figurati, poi i quattro portatili, e tu già lo sai anche tu, quindi cosa me ne vuoto? Non ne vuoto nulla, cioè spendere soldi in debanda, poi ho preso il quadribanda, 400 passa euro, nuovo, nuovo, nuovo, fiammante, scatolato e tutto, con tutto quello che c'è dentro, basta la spesa, non spendo più niente, finito. Ormai l'idea per comprare gli apparecchi non c'è neanche più commercio a Sassari, è finita. Ehi, va bene, adesso magari lo vale la pena adesso. Se ti pare adesso a comprare baracchini nuovi, ma poi a che cosa? Che basta quello che c'hai è anche troppo, quindi no. Ma prima era diverso, là. Prima era diverso. E io ne avevo 5 Galaxy, ne avevo 5. Me ne è rimasto solo uno, il resto, però quelli che avevo io erano buonissimi, erano nuovi, erano nuovi. E l'ultimo che ho dato era più nuovo ancora. Infatti mi è rimasto uno, quello modificato, e ce l'ha d'accordo, ma questo non lo so. Questo è il nuovo nuovo perché è stato comprato dalla fabbrica, nuovo e portato a metterci la scheda. E boh, così che per dirci no. Ma non le uso io, scheda non ne ho. Perché si può usare con la scheda e senza scheda. Ma non mi piace, sì che è meglio normale, e per cui se lo vede lui c'è lucido, ancora c'è sugli strumenti c'è ancora la pellicola, ti puoi immaginare, e oggi non conviene più a comprare niente, assolutamente, anzi, mi sto vendendo, cosa me ne faccio? Non me ne faccio niente, poi non c'è anche commercio, non ne compra più nessuno, così che ti puoi immaginare a comprare apparecchi nuovi, lo saranno. Oh, yeah. E poi oggi come oggi dici tutti i radio ufficiali invece un bel valore, no, e cane piglia più a colpi di 200 euro, 750 euro, avrà dei pillari per i 50 euro che c'è il radio e non le compare già nessuno nel mago, ma... cari compresi, ormai non compresi nessuno, no, sa, poi c'è qualcuno nuovo così che magari si riesce a convincerlo, ma non credo, perché oggi ci sono altre cose più importanti, per cui l'apparecchio il baracchino non vale più la pena, ecco, tutto lì. Vabbè, detto questo, riprendi, Antonè, riprendi. Ormai così, cosa aveva? Vai a prendere il suo affare, che sai dove rispondo, ma guarda, ti posso dare 50 euro. Quindi a un certo punto, guarda, lo tengo a casa, il discorso è quello lì. Se io voglio gli apparecchi, per carità, guarda, me li tengo e me li conservo. Se un giorno guarda che magari qualcuno li cerca, io lo potrei anche vendere qualcuno, ma ce l'hai visto nella fine che hanno fatto i Kimwood e gli altri apparecchi che non valgono più l'accidente. Non c'è più commercio in Sardegna, ormai è morto il commercio, magari fuori sì, ma qua no. Non è bisogno di più, ma lei mi segue le rade baracchini nubi che ci sono adesso in giro. Un palmo della mano funziona cante ghissi, anzi forse pure di più di ghissi, e c'è in un palmo della mano ce l'hai. Sono usciti quelli nuovi, costano anche poco, sono 200 canali, figurati tu. Il problema è che sono tutti MSD, quando vai a riparare ce li butta l'apparecchio, quindi sono come i telefonini, capito? Tu prendi e butti. Ma oramai le cose le fanno tutte così, e gli danno un termine di durata, quando si fa, se non ne vale la pena raccontarlo, fai prima, si durava e ti rubi un altro nuovo, si provi uno ubidene agli che gozzi, se no non era tutti nulla, vedrai adesso sono usciti questi, moderni, piccolini, c'hanno tutto, però col tempo non ne prende neanche più nessuno, vabbè ci ti pure un telefonino, io ce l'ho anche nel telefonino adesso, quel maracchino che su, cosa è? Sono due radio e parli tranquillo con tutti, o se lo fai nell'altra radio e parli solo tra di noi, ma... Sì, ma tutto un'altra cosa, da telefonino qua è tutto un'altra cosa, dai. Che piace, a me non mi piace assolutamente, e non le metti per nessuna ragione. Se parlo qua è tutto altro discorso. Vai Antonio. Ma guarda che c'è l'altra banda cittadina, è come il baracchino, non dove ci sono tutti quelli parlando, nell'altra banda cittadina, dove c'è il radar e che ti segna da dove stai modulando e tutto. Quello è come il baracchino. Tu ce l'hai, Antonio? Ma lo so, l'ho visto, ma non mi interessa. Lo so che è come il baracchino, sono 40 canali, infatti. Ma non mi interessa, né quelli 40 canali né gli altri, non mi interessa, capito? No, mi piace. A me non mi piace, mi piace più qua e per cui rimango qua. Se c'è gente che parla, se non c'è ne pazienza, non mi interessa, capito? Tutto lì. Quindi che ognuno fa quello che crede. Vai Antonio. Ma caduto. Non ci sarà più l'apparecchio sulla 27, basterà solamente una cosa leggera, ti esce il monitor e vedi la persona che ti parla di fronte e sai anche dove sta parlando, il discorso è quello. Arriveremo a quello lì, capito? Tanto ormai hai visto che ci sono i 5G, i telefonini che adesso c'hai l'antenna di 10 metri, tu figurati che in ogni palato c'è l'antenna 5G, quindi faremo la fine di quelli. Arriveremo a casa che ci sarà tante di quelle antenne nei palazzi che non se ne capiranno a fanculo. Ma io ce l'ho anche su computer quella lì, quella roba, capito? Grazie, io ce l'ho anche su computer, ma ce l'ho già, sarà un annetto che ce l'ho, però non l'ho mai usata, in realtà non mi va, tanto non ho più acceso io assolutamente. Quello me l'aveva dato un amico, per cui me l'ha installato lui e funziona bene, tranquillo, però non mi piace, non li uso assolutamente. Per immaginare se dovessi a metterli nel telefonino. Oh, gatta, lasciamo perdere, là. Dai, grazie. ringraziare, divertirsi tu al telefonino, no? Per me lo fa, è meglio qua, va. Ehi, ehi, ma io dopo dieci che col tempo spariranno del tutto le radio che ci abbiamo adesso, proprio perché hai visto dopo dieci sale il vostro buco in un telefonino, ecco chi c'è che dopo dieci hai compreso. Coincide a fatta apposta a mandare in fallimento chi che radio che tratta il muro. Non è così, Anto? Sì, sì, arriveremo a quello che useranno il monitor. Capito? Adesso per dire, un indomani che bisogna le macchine elettriche, i distributori di benzina chiuderanno tutti e tutta questa gente uniata a farsi venire quanti già hanno fatto prima quando hanno invitato il self-service, tutti gli operati erano tutti pura e non l'hai visto, e adesso se escono le macchine a batteria come ti dicono va, per i rifornitori chiuderanno tutti, o non è così, Antone? Adesso ci mangia lei, ci mangia, capito? Fai solo lei. E allora adesso mangiano chi hanno le compagnie di corrente. Avanti vedi ieri gli amici della benzina passano i segni a impianti di corrente, della benzina ci passano a palline di corrente. A chi sa niente va di luci o no? Adesso proprio di diesel, una volta tolto il diesel, proprio dopo la nuova benzina. E rimarranno solamente le auto a corrente elettrica, compresa anche le moto, visto di biciclette elettriche. Quindi andremo tutte a corrente elettrica. Non siamo iscritti all'Edison, non siamo iscritti all'Ene, non siamo iscritti alla fuscia che ti fa bere la canna, per dire, come ditta. È tutto così, E poi Boni, l'assicurazione Bull va la bicicletta che è elettrico. Assicurazione Bull. Si crede che sono macchi. Ti ha tirato giù di Anniveggia. O no? Intanto adesso la stanno usando, per cui è un bel comodo. Siamo dell'assicurazione. Cazzo è un bullo, cazzo è un consumo, ma poi dici, mette questi chissi, non paga né bullo né assicurazione, non vi vuole un casco né niente, capito? Ehi, no, io me la sto vendendo la bicicletta, perché devo prendermi lo scooter, quindi che appena che vendo lo scooter, mi prendo appena che vendo la bicicletta, prendo lo scooter, che è migliore là, più riservato e tutto, e quello già l'ho preso, no, la mia volume l'aveva già comprato, però non la devo comprare anche per la bicicletta in magazzino, così che non vi cazzi, capito? Se non l'aveva già avuto molto prima, va. Hai chiesto, come ti ho detto io, a vedere quanto ti valuta quella dove devi comprare lo scooter. Se la compra quello, già la vedi che è nuova, e tu te lo fai valutare, capisci, ascolti dallo scooter che devi comprare, non hai chiesto. E ho già cazzo della valutata, che ci devi a Napoli, 250 euro, qui c'è Marco, ma non l'ho usata, c'è un... due ore di percorso ha fatto con la bicicletta, no, staranno, e il motorino costa 2500 euro, ma può fare di chi? Cazzo, mentre contento mi devo darti presi, capito? Sarà macchino che gli do con la bicicletta a 250 euro, non saranno, costa 740 euro questa bicicletta, puoi immaginarti, io ve la do a costo della sala marcire in magazzino, però non ne do, capito? Sarà macchino, ne approfittare, capito? Sì, ma tu hai chiesto dove hai comprato quella, se te la ritirano loro e quanto te la valuta, lì dici guarda ha camminato due ore, già si vede. vede, non si sei informata a vedere quanto te la valutano loro, ritirandosi quella anche. E tenni di lupo e spino. No, no, non mi conviene perché bisogna finire, imballarla. Ma c'è l'imballo, è molto, molto voluminoso, ma è proprio fatto, no, saranno. No, se la prendono, vedo qua e basta, capito? In modo che tiene la prova, se ritrae, si piglia e se la porta via. Pure non ne donno, assolutamente, grazie. Ma se non mi dà di chi si vuole, io non li do, ecco. Tanto fare non mi sta chiedendo, pagata, pagata. E per cui va bene così. Bianco, un attimo per me. Eia, ma bisogna pure giocare la sevindenna, chi uno dice, secondo canto la sevindenna, il paese malissimo me la vedono un negozio, secondo canto la busta tua, quindi, la busta su, sa stare compro e vendo, lo sta facendo? No, lo sono io, no. Sono ma sta facendo, chi sei? Magari me. Ma non mi preoccupo più del cazzo, no? Così, ripeto, se riesce a prendere la prendo. Se no, pazienza, no. Però ho preso il macchese, se voglio bene. Allora, se voglio andare, piglio. Allora, me lo direi, me lo posso stare lì. Però no, non mi preoccupo, capito? Tanto, se mi rifero, per cui non è che devo qua camminare, in bicicletta, nel motorino, qui a parte. Io se lo uso, lo uso in prima fera, tempo buono, basta, ma per freddo. E già che sono un cantonore, se mi pongo a cambiare le biciclette e il motorino, tanto ma a cacciare della accogliere. Oh, ma vanno fatti, grande, la fate vera, uno in nove, due di fa, con chissà cadere a quattro rotelline, che pare una motoretta, camminelli, vivi, a chi sura? Dice che c'è Marco, uno prende un vero il capo le antenne, piano piano, era tutto illuminato, era, e camminelli piano piano, vicino alla marcia a piedi, e la moglie era a piedi, a fianco ai denti, le antenne piano piano, nuova nuova, ci va a tenere la provenne. Ma uno prende un vero, la prima volta è scissi, tutti imbabuccati, era. Bicicletta e moto, va bene, si è bussato, ma mi ha tutto, sempre una cosa bella, Okay. Io la già, prenotata, mi la dico, me l'ha già prenotata, così che va, se il bambino mi la riga, capito? Ma tu c'ho la una domanda, di me vengo su puro vicino all'Eurospin, pure lì ci mi pare di darmi. Beh, cosa, pure, mi pare che ci sia le portatore, se che vende le moto, mi pare vende pure biciclette, vedi su in via Bugino che vende moto e biciclette, proprio nell'incrocio. Ci la ti va un giro giù a domanda. Ma sta fase mai troppo cara, sassari no, fa fare la pena, capito? No, non ne do in sassari, aspetta, se la prendo la prendo così e basta, capito? E per cui, no, non bisogna preoccuparlo, il magazzino, tranquilla, tappata, fa il gelone apposta, fa la bicicletta, tutta tappata. Anzi, l'ho fatto pure la modifica, va la batteria, stavo l'occasione, la giocata, gli butto il portabagaglio ad arezzo, orizzontale, e la fa arrivo, la paglia fa arrivo, però non mi piace, ecco, mi piace la batteria, quindi, e allora, dai, c'è di me così, ma sta sicuro che a prima fine, a che giro, me lo porto, sai che forse 70 km di autonomia vai questa batteria, Certo, si può immaginare 70 km di autonomia, poi fa la passamola, sta a essere tranquillo. Eia, non stai uscendo? Beh, 70 km già andavi. Eia, chi è che vuole entrare? Ma qualcuno c'è, grazie. Ma già sei caccheduro, vuoi entrare? Aspetta che chiamiamo a Bacchisio o a Tore. Attento signor Bacchisio, Tore, ancora in giro, bicicletta a Tore. Si ha posto la pila in un casco, fa di rusi con un casco, fa di rusi. Cambia la buona di rotti, Tore. Lo stai uscendo? Bacchisio è. Bacchisio, tu sei, non stai uscendo. Guarda adesso sto uscendo. Questo passaggio ci riprova. Adesso ci riprova. Ma cosa? Ma cosa del nostro? E però adesso ha fatto quel rumore fischiato. Ciao Bacchi, buonasera. Adesso già stai uscendo e va benino, non è che sia forte forte, perché da Graziano a te c'è un abisso e Graziano mi spacca tutto. Mentre qui invece tocca a mettere a tutto il volume per sentirti bene. Graziano magari è più vicino e lo sente e ti sente più bene lui, capito Bacchi? Io vabbè che sono mezzo sordo, grazie. Avete graziato i timpani, ce li ha perfetti. Forse per quello che si sente bene lui. Così è grazie. E allora io vado qui a parecchio, ma ci vedrai giù me. Che ci due blocchetti. No, ma io non ne ho più usato di quella roba. Mi sembra abbia usato una quindicina di giorni e poi non li ho usati più, no. Però adesso una cassa a sinistra e un po' in grangherata, la destra ancora già funziona poco poco, non molto molto, però qualche cosa già si fa sentire, capito? La sinistra è che è un po' balorda, in grangherata va per carità, chi si muore vivo ma chi? Chissà dottoressa del policlinico, guarda la polipiri, cazzo, ma è scempiato, mi ha fatto venire l'occhite, è dalla via, ho fatto passare 2 mesi, cazzo, per dire a un capo, è dalla volta, mi ha fatto venire l'occhite, così che sento poche, quasi niente, magari con l'apparecchio sì, ma senza apparecchio sento poco, capito? No, io già ce l'ho, però lo uso qualche volta, a chi sa la residenza mi ha dato la salute, un giro e pare che faccia un grillo dritta alla rete e faccia cri cri cri cri cri, allora rimane mi la faccio, oggi no, boh, eppure mi la visita di tutte, ma di più non c'è niente. Mi sento un grillo su mia tanto. Evidentemente ci sono i grilli di Renzo, grazie. No, a me me l'ha rovinata l'inspezione che mi ha pigliato quando me l'ha pulita, capito? Ma è scoppiato, si è gonfiata e 2 mesi che non puoi lanciare la legge, che mi ha rovinato i timpani sulla sinistra, capito? Che ecco perché magari sento di meno lì. Però a parecchio non li ho usati. Ci vediamo, ma non li uso assolutamente. Da sento poco a poco e lo sento ancora. No, a me chi sarecce alla dritta, tagliendo l'elba, mi sono entrato un po' razzacco, io pensavo che era un animale. E da me non mi sono andato giù al pronto soccorso ed ero giù di pure nei gocci contro gocci e mi tendiate a prendere su cricchi cliccando ma non è molto di già si mi è rimasto dentro il insetto a chi cominciava a darmi gli stupati da me intendia sotto al mento la cattura in direzione dell'orecchio ma poi giù di soccorso mi ha baciato e mi ha tirato un po' la sacco. Ma dice, ma sei culo che me l'ha levato del sucio, perché io questo cricchi lo intendo, lo mattesi. E qui non c'è più niente, l'abbiamo levato, infatti me l'ha fatto vedere. Mi sei entrato un po' la sacco in l'area, tagliando l'erba, ma veramente una lì. A me mi pare che mi sei entrato un animale. E a te che sei entrato a Tore? A chi? Spero grazie a te se fosse la bufera e allora un sarrone se l'ha entrato grazie e già vi l'era cavato un bacchino comunque c'era Antonello grazie Antonello aspetta ma Antonello Popone o Tucce non stai uscendo allora non so cos'è Popone o Bacchino che c'ha trombetta. No, era un po' rassacco, già lo sai che ora c'è la un po' rassacco, quell'erba che sembrano spighe, mi sbacchi. E pure che ti ha cagliato. Guarda che lo sta uscendo a Torello, c'hai le sirene appresso, sì. Ah, vai fruggendine. Ah, vai fruggendine. Vai, sei caduto. Ah, vai, accendi bene. Sempre murichenne state, boh. E dopo dici che dopo l'uovo l'apparecchio. Vai tu, e io mi voglio comparare. Beh, ma chi è Tore che non abbiamo sentito ancora? Ma con in bicicletta, Cazzo. Era in giro sulla zona di Graziano, arriva la sera. Cazzo, era Rinotti, va via la pilla in un casco. A Rinotti, la luce lo guarda in un casco. Proprio così, Ma te ne immagini? Oggi deve essere ancora in attore di Graziano. Grazie a faccia da vedere l'attore. No, non pensa, che tu non vi sarà passato. Pensa che si cubisce pure. E che vi io se ne passava a Romagna, Addirittura. No, che da fare questa medicina che non si avvicina nel cazzo un cuccio bianco. Ehi, Giulia, è stato gli assommazzetti, tutti e cinque, puzzinosi, tu mi aggapo, pare nei leoni. Beh, grazie, no, tu fai l'attrezzo, che cosa si può fare dal terrazzino? Ehi, si vede di affosso, sono troppo distanti. Se fa la stessa della guerra vedi bacchini fa così o Graziano se va a dare 10 anni in guerra ehi no pure aspetto maestro ma però mi sa che dai no che ai libri hanno invece stai da ringhiera sono di più di 100 maestri. Però nel piazzaletto dove c'è l'entrata per entrare lì nelle scuole. Grazie, allora voi la molesta sta accorciare la canna per imbattire di più. Potenziata e depotenziata. E ce l'ho anche a canna lunga. Lo so, però la fatti pure a brua, ma veramente non ci ho provato. Al va bene. E già qualche dia mi brucio, non bisogna sempre niente. Ma Antonello si è fatto un brucio e sta facendo che era un bombo, che cosa ha fatto un caso? Di l'apparecchiatore del volo a posto, grazie a... È sicuro, gli rimane vedo, arrivato in un soffalso, gli ha stati venuti. Gli ha trovato il gruppo, grazie, ha trovato tutto l'attrezzo, così che ha trovato il gruppo. No, la di... si mappa a capo, a seguivi, sopra i via Parigi, via Londra, e lo calisce a vedi, chi ci avrà della fattura? Cate che l'ha giudicato, era la mia figliura, non è? Natale Mari era la mia figliura, era appunto l'antenna, cate, è già fa vedere a poco, ya. Una matracca, Cazzo, metto il cuore di piglia, dai comincia a fare zero a fini più. Peggio di me! Dai, non ne manca la gana, vabbè. Cazzo, travaglia lo fatti lo matteggi. A tempo pezzi la fatti, non è che ne fatti ma cose, no? A tempo pezzi lo fatti, anche fa un bel travaglio, per cui... Vasi, capito? Una di chi mi attacca a capo nel faro, ho fatto a bocca ai vivi e glielo do Vittorio, si chiama così. E via Budapest, si pare che via Budapest. Chi entra prima di Lugosio, di grattacielo, a dritta. E già lo so dove, all'incirca me l'immagino, già lo so quella zona. C'è in quella via c'è un supermercato, una macelleria, c'è, mi pare che l'ha giù visto buco, la serranda, con la vetrata, elettrotecnico. Oh, fide, oh no, il professore attaccare dove è un bar. È un bar giuro. Così che dove lei come stai su tu, capito? È un bar solo di eletto e basta, lo finiasco. Tu come ti giri dalle carabine e saletti verso un grattacielo, attrezza la prima via attrezza, giri attrezza e a sappia esi. No, la prima via, allora, come ti dichi che hanno dritto il vostro grattacielo, beh, la prima via, chi sanno che ci farà il battito umano, e la seconda via a destra. Bravo, si hai ragione, si hai ragione. La seconda via a destra, esatto. Come ti giri, 50 metri sei. Dai, faccio l'altro farlo, va. Ma mi sembra che l'avevo intravisto io lì, perché anche quando lavoravo, che facevo consegne, l'avevo intravisto una cosa del genere. Ehi, chi viene bene a buco, chi ci invia mendola, chi ci vuole sempre, mi l'aveva domandato, ma dice che non c'ho tempo, adesso c'ho un sacco di televisione da controllare. Magari me lo porti e poi rimane buttato lì e vabbè, allora si vedimo e non era proprio lasciato. Avanti, signor Bacchi. Ah, ti chiamiamo prima attore, vediamo un po', attore. Eia, Bacchi, ma attore non l'ha inteso. Bandi davvero si è fatto. Ci ha portato. Ma va, lo si insegna nel Bacchiglio, Vettore e ne Antonello. E poi non si è sentito più, siamo andati in giù. Ma c'era sempre tutta la sera con un caccia a vista in mano. Mi pare la gassa giù, che ora era Gianmarica, non mai inteso giù. Eri 4, ora che cosa era? 4 e mezzo, una cosa del genere. Figurati da che ora vi trovo. Non caro Matteo, ma va a fare un messaggio, non va a accendere la radio, ed è il parito. Duca sarà devorato la pasta al forno, capito? Perché è rimasto un po' da pranzo, come si chiama, della stracchiccio, capito? E lo deve terminare. No, ho il PMR acceso, ed era nel PMR, l'ho spento perché stava parlando al PMR. Ah, ma l'ha accesa lei, non vuoi più. Silenzio, evidentemente hanno chiuso magari, non è che possiamo tutta la sera attaccati ai chili, no? Neppure fare le cose da fare, no? Però Bacchì, no? Si è aspettato, chiama attore Bacchì. Va, tutti i caggiuti sono meglio, Mari, avanti in ufficio, quando esco ti chiamo. Mi raccomando, non imballarlo, vai. Chi ci sono amaretti, mi? Cazzo, mangia la sai amaretti tu. Ho iniziato di fuggire all'ufficio Graziano, Forza Maggiore, ogni tanto glielo fa quello, tutti i giorni, per carità. Un'altra cosa, mi se c'è che voce a più che a lungo, cazzo. Allora, ma se caduca, i problemi che la salute, per carità, però sta per i novitati di peggio, va. Vediamo un po', Tore, è andato a accompagnare lui è in Arum, il bar, ora figliora, a Olbia. Allora è Zaffarazzo, dai. Allora è Zaffarazzo, però la si fa sentire, lui non manca mai. Di solito quando è libero già fa le chiamate. A Bacchì, lui chiamate di fate, cazzo, a Bacchì. Cazzo, ma è innamorato, si è tutto con Bacchiglio. A chi si sente Bacchiglio, qui si è Bacchiglio là. Ma va, sei uscito bene, adesso sei uscito benissimo. Allora sempre qua, ragazzi, sì, è bello. E se lo faccio a Graziano, devo abbassare, a te devo alzare, e dopo posso travaglio, capito? Però adesso va bene, avvicinati per quello, per cui almeno ti sento bene, ecco. Però certe volte non riesco nemmeno a sapere cosa stai dicendo, capito? Stavo pensando che sta dicendo di nuovo. Oh, che facendo riposare lo sai. Quello vuol dire morto, cazzo. Vuol dire morto quello. io prima abbia un problema, entravo sulla mia entrava, cazzo, entravo bene sulla mia. Aspetta, adesso da quando l'abbiamo messa a posto, grazie a Dio, no, no, è perfetta, no, no, non disturba, tranquillo, cazzo. E se non mi stava demoralizzando, già, adesso dammi tutto. Tanto, secondo me infatti tra di noi ci sentiamo benissimo, a Puglia, certo, anche se con Antonino va bene, capito? Non è che siamo lontani, per cui andrà vero pazzesco. Ma io sto uscendo con la Mantova, per cui anch'io ne ho quattro, però sono con la Mantova io, capito? Beh, entrate Pupù. Per carità. Chi stai correggendo ancora, grazie a Dio. Chi stai correggendo ancora? Per cui magari prima funzionava, ma ora non funziona più come è solo mio. Ma quando mai non le date fastidio a me, va? Ogni minima cosa mi date fastidio, infatti ne date tutti picchiati da mezzare bene, intanto. Una riva via chi, ma va a fannappo. Ti ripigli uno come ti si deve, no, guarda ma cosa che è nuovo. Ma vi volete da farlo per apparecchio a comprarlo, grazie, cazzo non fare già che fai il turno, tu vuoi avviare le possibilità, compare già per due e lo dai. Ma se ci vendi tutti chi fa, uno dopo questi, ti dici moderno, minoretto, non pigliare nemmeno un luogo e va tutte le funzioni di un umano. Vero Bacchi? Otto. Oh Bacchi. Io ho preso il 2000, CRC 2000, no? E io pensavo che era un bel manno questo apparecchio. Ma non ti dico, minore, più minore della mano. Più minore della mano. Se si lo vede bello, mi giusta a colori, però se lo vedi, perché c'ha una cazzo di alluminio. Perché ne sa, ero fotografie, pareva che era più umano e tutto quanto, infatti che arrivi, una catturetta, cazzo. Ah, ti ha messo, cazzo la mano, ti finora anche pure della mano, la busciacchetta della giacca, certo, mi immagina, mio vedo, tu fai il mio vedo, me lo vedo, cioè, più minore lo cose, l'apparecchio che lo microfono, ti puoi immaginare, piccolino, cazzo. Cazzo, io pensavo che era più umano, invece, cazzo, dai la sedia, vedi, su colorato, però non fa niente, mi sono ben impriata, sono digitali però, sono digitali, per cui lui ha sibilato pure il suo, il treno aveva bilato, ha sibilato il 2000, per il 2000, poi l'otto, quello che c'è su Bacchì, l'otto, nove, nove, o diciamo mezzo, boh, quattro, otto, otto, non mi ha messo più, dell'Istache, e più il presidente Girfi, il treno aveva bilato. Però no, qui ci sono mani, questi due, questi di 2000 e Minoretto, Minoretto. E che se l'avevi pagato, questo, Bacchi? Ehi, quello che c'è in macchina, al piccoli. Ci costano più poco, invece chi ci vuole dire un BMR che altro l'abbiamo pagato Giammari, il BMR l'abbiamo pagato 105, 125, 125, sì, 125 il BMR l'abbiamo pagato, ma è aumentato, grazie, ha aumentato, non ve ne so più di chi ci prendi, sono aumentati. Per cui, ma è catechiscio, io dice le gente, 2000 catechiscio, catechiscio BMR, però più piatto, ecco, perché il BMR è più grosso, perché la 27 è più piatto, capito? Però è catechiscio, più o meno è così, vai. Già l'avevo visto nel computer, piccolino, la palla bella di nuovo, riesci a vedere, come sai che ti hai detto di Giamma? CRC 2000, sono belli, sono belli, ma io sono un po' di filo di sacca, dai, è piccolissimo, è tutto digitale però, ma chi è? Ogni cosa devi entrare sul menu e fa tutti questi lavori, capito? Radio P, come te? CRT 2000. Mando sullo scappo, grazie. Aspetta, sto guardando. Allora, radio ricetrasmettitore CBCRT 2000, omologato, display a colori di dall'Italia, e ci avevi? Ah, già l'hai avuto allora. Oh, è bellino, è bellino. Guarda, Tagarali, AM, FM. Va bene, va benissimo. Allora, eccolo qua. Allora, Radio RT, chiedi HF, VHF, UHF, Radio CB, banda cittadina, marca Procel, codice 2000 CB, Nevo Generazione, radio ricetrasmettitore CB, CRT 2000, omologato, display a colori, espansibile in frequenza 25-30 MHz, CB primo di una nuova generazione realizzata con tecnologia propria di apparati professionali con caratteristiche lo rendono unico sul panorama. Giovanni! Contatti programmabili, retroilluminati, funzioni avanzate, alimentazione 12-24 volt, dimensioni contenute. E poi cosa avevo? Ah, eccolo qua, tutto a colori, e c'ha 1, 2, sua frequenza mi pare il viso, il display, scarica legata modifica, allargamento frequenza, antenna magnetica per CB la trovi qua, 22 euro, è me chi ci va? Ah, presso IVA compresa, disponibile il tempo di consegna, 2 giorni, 126,50. Scegli quantità, aggiungi a carrello. Contatti, segnala un amico. Beh, pure l'antenna, ecco, c'è una vesseria, un bel ante multibanda, un bel antenne ci sono, di vari prezzi. Ehi, ma poi fa, sembra così, ma c'ha, basta entrare in menu e bisogna vedere i canali, però, capito, bisogna vedere i canali, mica sia. No, è bello, bello, perché è piccolino e c'è tutto, me già l'hai sentito qua, adesso magari per entrare là, se no se l'avrei fatto sentire, è bellino, capito? È bello, è più piccolo di quel PMR che c'hai tu. Sì, già lo vedo qua, ce l'ho qua a me, ce l'ho qua presente. Sì, è piccia. Tre tazzini a destra e tre tazzini a sinistra, P1, P2, P3, e a destra c'è P4, P5 e P6, e tutti a colori, bianco, rosso, verde, blu. Già, no, è bello, è bello, è bello, è bello, già fa caccia del canale, ma a noi non ci interessa quei canali. Passano a misurare solo i 40 canali, sei tranquillo, va benissimo, da voi, guarda oltre, entri in menu e fai, è da 25 a 30 MHz, ti puoi immaginare? Sì, in 2000 e 9, presso, va compresa 126,50, tempo di consegna stimata 2 giorni, scegli quantità, segnala la micro e poi l'antenne, vi do l'alimentatore, no, non mi interessa, antenna per auto 36, antenna CB magnetica per auto 23 euro, chiavetta USB, matassa di stagno, ragazzo. Anche l'antenna c'è, ce n'è la più, ecco, Silvio Grondi, Plane GPA 2745, tarabile, antenna da base CB, 50 euro, IVA compresa. E poi ce n'è una da 57, Grondi, Plane, antenna da base, e vedi. Me la posso ubriacare, se me lo pongo in salone con questa antenna e ce l'ho in salone e non costa molto intanto ed è bellino. Sto dicendo, è bellino sì, è bellino sì, è piccolino, piccolino, non si nota nemmeno, cazzo, puoi mettere sopra un mobile così non si nota, sembra un coso, un argentino. Funzionano bene, vanno bene, sono 4 watt, AMF, tutto lì. Allora, abbigliatino e il buon di salone. Avanti, signor Bacchini. Chiamari! Di qua, se abbigliati di con di carriera te li comprovassero, come ci sono fatti la televisione, va, ci si guarda la televisione a Duce, la boccia a Cozzani, si costa più la riparazione che a comprare la roba, capito? Anzi, dice che se la compriamo per fare di bene, ma non si guarda rifattimente, guarda, lascia perdere, non si guarda rifattimente, salvo che noi c'hai una mortante fissa ore e ore, ma bruciarlo, scusa, Ma metto in tratta e brugia, la mostra il mamma, dura una vita, dura questo apparecchietto. Fare lui sì, ma sono ben di fatti, dai. Ehi, per quello che la offriamo noi, non c'è nemmeno una cugna di vetro, attendi tu. A vedere il BMR, noi sempre che lo tratto, no, chi ci minori. Ma uso più il portatile, per dire. È più comodo perché è più maneggevole, e a me mi viene pure più lento a punirmi la piazza, anzi io ci me lo posso attaccare, non vi dare di non attaccare di vidaretto in cucina, e così non so quando è torra. Fai bene, sta a finire là con pregiardino. Aspetta, mi sembra che ho sentito qualche grido. Avanti! Ciao Mario, e che facendo c'hai? Prima fai il capolizio e poi vieni qua, tu bella bella, ti ho sentito, sai? Ma io sono a casa adesso, no? Faccio i cavoli miei, Hai capito? Ti ho sentito di là, ti ho sentito, chiacchierando. È vero. Ti penso, ti fa la cosa. Sì, c'è anche Bacchiglio, vedi. Bacchiglio lo sento basso, ciao Bacchi. Ciao, Luca, buonasera, sono a casa. Sono giù, Luca. Come faccio io? E prima al televisore da Auroni che cazzo me l'avevo pagato 600.000 lire l'avevo pagato. Cazzo, oggi ho fatto la fila romanzano, cazzo, da ricerca romanzano, anche vedere di 7-8 giorni di televisione. 3 anni, ma comunque loro. Prima 4, invece la chitarra in mezzo, anziché non le raccolto, vado a me la ci comprato un altro e io sono girampato. Ma è così oggi, come la fa così, magari prima, vabbè, ma oggi mi riso poco in televisione che si costare il poco e funziona bene, certo, e funziona bene, per cui chiaro che se pigli un televisore che costa 1.500 euro, che lo saranno a stare maggiore, da poi si può costare ugualmente come se si costare il poco, pure. Ma oggi viene tutti i prezzi di televisione, marche che non hai mai inteso e pure funziona nei vecchi. Me l'ha ispirato HI, marca HI 42, cazzo, è un bombone che funziona che è un bombone, per cui l'ho pagato poco, mi sembra 180, mi sembra. Quanto? 2,50. Ah, 2,50. E poi immagina, ti fa un quadro che non finisce più, per dirti no. E ti occupi a contare, e ci fai le baracchini, il bacchino. Tanto di qua, c'è bene di con di carriera questa. Oh, però non è tanto facile a guardarsi così, no. Può capitare un apparecchio di pettugli, non è che uno baracchino di bisogno di pettugli, Però sono cose rarissime per cui durano che l'età. Aspetto io peraggio, ho usato qualche volta così, ma invece mi dura, magari dura meno baracchino che devo. A me pure me la è una gemella duro si battesi e PMR piazza e la gemella duro pare 80 o 90. 90, 90 li abbiamo pagati. Da Torino. Ecco. E mi ha ripetuto che non funzionava. Non funzionava, solo ricezione, non ricia. Era aiutato da uno, mi dice mai garanzia. E si è tenuto troppo, un visto, e per cui dopo mi è caduta la garanzia e non, quindi non me l'ha più accettata. Infatti chi ci viene bene l'ha già regalato. Però in ricezione va bene, solo in trasmissione sì. E sicuro con 100.000 watt capito? Per dire, mi sono pure apparecchietto e dipettuti, capito? Non è che come tutte le cose, ecco, io ho ragione, dove va, purtroppo capito anche queste cose, capito? Ma che, però si ha pensato che sono finito un biglietto così. Capito, un macello così. chi è Bacchi? Perché abbiamo detto tutto anche a casa, ci sentiamo domani, se coincide, ma è un buon proseguimento. Vai, grazie. Ciao Bacchiglio, alla prossima, buon proseguimento di serata, ciao. Luca. Ciao Bacchi, dai, salutoni, alle prossime, buona carica, buon tutto, io sto saldando qua, senti il motore, lo senti? Raccomando, occhio alla bicchi. Ciao, tirare le gambe occhiali, sì? Beh, è minimo. Allora, tranquillo, grazie. A proposito, faccio un lavoro tu. La capicuria, sì. C'è la strada del Catrame, sì, Dio Mari, sì. Adesso dobbiamo fare là gli altri lavori. Ah, vabbè, meglio così, da ok. Va bene, salda, salda, Lu. Così, tu prendi. Che lo porti al tecnico? L'ha detto, ma ancora di capo, dice. Che tutti ti lo porti dallo tecnico. Ma mi dai quello che voglio io, in televisione, se no mi torni su, è presto a muro. Anche se no ti faccio tanto essere occhi. A me si mi l'ha dato. Ma dici, che cos'è? Mica me l'hai dato a rimane, mi l'hai dato un'ora a farmi, non hai compreso. Già, come tutte le cose, il giorno di effettuoso, eccetera, capito? Bene, grazie. E coppa già dice, me lo dico. O se vuoi rumeno, no, ti rende rumeno, grazie. Per cui se l'hai subito in casa, a tu io non lo tratto, mi faccio anche lui omologato in casa. Ti vuoi rumeno con buon rumeno. Vabbè, io era di lui che non me l'ha mai subito. Non me l'ha mai subito. Non lo so, adesso vediamo. Di portarmelo via, lo controlliamo, lo attacchi qua, a chi, se non funziona mi tocca tornare in rogo, dunque mi ne dai uno uguale a questo, e infatti è andato in magazzino, l'ha pigliato, l'ha regato dentro un negozio e l'ha collegato la presa e l'antenna, funziona, è tutto a posto, avanti. Faccio provare, cazzo, non credo. Se io sono toccato torna a regadino e a tornare a rompere il cazzo a esso. E allora, la giusto non solo, a bar, mi rubrovi i nomi, se no mi torni di là, è presto a burro e ti rimani, sia chi tu che chiesto. No, aspetti, io si calmi, no, a mai da sé, i nomi sono. Adesso è andato e l'ha regato l'altro televisore. Quell'altro era quello che non funzionava, era Samsung, e mi avevo preso il Philips. Si aveva visto che era giocato in campagna con un carrello, il nuovo nuovo, un milione e mezzo quello lì l'avevo pagato, mille scuse lui, noi. E allora non prendo 1500 euro, ma un servizio, non sarà, no, scherza, noi, scherza. Se vuoi spendere 200-300 euro è anche troppo, cosa? Ciao, disiguata, io ti dico di carriera e ti dico un po' di gruppo, cosa? Cazzo, vanno a un numero, ogni camera, per immagina in campagna per il giorno lui e che la stessa di lui sta a fare la stagione, se vuoi la gira la stessa fa fare i cagli un poco e già funziona lì. Sentirsi no, no, non ripeto una cifra del genere ma un televisore, no. Ci sono quindi che ripiati e ripeti, io ripeto si assai. Però c'era anche il mobiletto, il digitale, avevo preso tutto completo, l'avevo pigliato, pronto a piazza. E l'avevo pagato così, 1500 euro, tutto, come era l'esposizione di là, c'era quel tipo, tanto e quel tipo qui, e l'avevo preso così come era nell'esposizione, capito? Poi adesso ce l'ho in campagna io, in camera da letto, e funziona che è un bombo, che... E allora, io, va a farlo, da. Ciao Giammarì, ce la risentiamo. Ciao Luca, buon proseguimento di lavoro anche a te e buona carica quando la fa. Anche a te. Riprendi Giammarì, aspetta il finalino e chiudo. Ciao. Ciao, grazie, sentiamo, va. Ciao Tony Casa, ci sentiamo. Anche da noi. A domani se coincide, fai lo. Ciao grazie, dai, buonanotte, saluta la Paoletta, buona cena, buon tutto, alle prossime, ciao. Ehi, hey, ciao ciao. Cos'è che stai saldando? Computer o telefonini? No, Giovanni, sto saldando, aspetta, sono, non ti sento, un connettore di ricarica di un telefono. Ah, certo, ehi, sono... La microlente vi buca, o no? Già ce l'ho io Mari. Pare che roba minuta, cazzo, avevo una lente, cazzo, speciale, cazzo. Cazzo, apprezzata allora, per cui il saldatore buono, già ce l'hai. Beh, uno che fa questi lavori deve stare attrezzato, se no è inutile a riparare perché non si escono bene le saldature. Beh, per forza, se uno deve fare dei lavori, no, guarda, è più che ottimo. Io pensavo che di non trovarmi bene, ma mi sono trovato bene, ho fatto un sacco di lavori. Aspetta un attimino. A voglia, la Lucrezia. Ti pare così? Ma mi sa che vuole nuovo, Gio Mari, dai, non detto che va per il tempo. Vuole nuovo e poi, dai. Non posso stare lì a perdere tempo. Fai bene, fai bene tu. Ah, so, vado su e me lo ordino. C'è la lista, si trova questa roba, cazzo, ma si trova tutto sui B, dai. Sì, per quello sì, a voglia. Meno male abbiamo questa fortuna che riusciva a ciappare un po' di roba in sicurezza, capito? Per cui è una cosa molto utile, ecco. Per cui va bene. Meno male che gli stai meglio, Mari, poi diciamo già sono veloci anche. Ah, beh. Ma un po' di roba su via di bilato, un po' di roba, andate su, è strano che io sono in Torino, cazzo, su BMR, che mi ha rapito che non funzionava, cazzo, ma forse ma quello è la mia colpa, a chi era imballato, quando mi ha rapito era imballato, io mi ha attaccato, ero in scia, e poi non mi davo più già bacchi, era finita la garanzia, cazzo. E io prima ero decisivo di tornare, invece mi hanno interessato così troppo a controllarlo e allora è andata 80 euro, io sapevo, pazienza. Beh certo, sì, quello mai costa anche poco, dai, costa un bel poco. Quello vuol dire molto, certo. Poi se una cosa serve, tutto un po' più che tu vuoi appoggiare, sicché magari se lo farai oggi, farai domani e lo acquisti, capisci? Sì, adesso controllo quanto ce l'ho la carta, invece non mi bastano neanche. Do un'occhiata sulla Poste B dal telefono. scatto anche WhatsApp del telefono. Già dobbiamo andare in butta, quindi ogni butta la vedi la tua più di là. Meno male, va. Infatti. Bene a posto il settore. Sore! Oh, strano che sore oggi. Ho il zapparaggio. E dopo entrare. Non ho sentito per niente oggi. Beh, non si è fatto sentire. Oh no, nulla. In tutto il giorno non ho sentito nulla. Strano, magari da farà buruetto. Beh, senz'altro, se no sarebbe entrato, senz'altro sarebbe zapparato. Vabbè, col giro sentiremo domani. Sì, già ne abbiamo tempo, dai Giovanni. A Puglia tempo. A Piro. La salute di voi è bassa. C'è qui ad Avemmo. Quello senza ombra di dubbio. Se non c'è quella, non c'è più niente. Però male che almeno quello fai su lui, almeno ti svaghi un po' e busti qualche cosa e di un bene. Io a piccolità sempre e di no il lavoro bisogna anche inventarselo e per cui già si piccolizzeggia sempre, capito? Allora ti spiego, questo telefono l'avevo riparato io, mi hanno dato al tipo, già sono sistemato, però non l'ho usato perché ne ha un altro più superiore a questo, lo voleva vendere oggi a un suo parente e praticamente, come si dice, non carica, comunque l'avevo sistemato io, andava bene. Adesso te lo compro di nuovo il jack, cosa vuoi ti dica? Qualche cosetta c'è, ce l'ho lui. No, non mi deve dare niente, a me mi sono 18 euro, cosa mi devi dare? Non ti devi dare nulla. Non mi deve dare niente, vabbè, non è quella la spesa, non è tanta la spesa, dai. Vabbè, allora cambia tutto. Infatti mi devo ordinare, buonanotte, se vinci la più tempo. Però, diciamo che l'avevo rinforzato, boh, strano mi si è rotto così. Vabbè, là. Cosa vi metti? 3 euro, 4 euro, 5 euro, se la viene luce. È una cazzata, va. Già tocca la spesa per cui si può fare, dai. Va bene, lui, dai, chiudo anch'io, per cui da prossimo, dai, ci sentiamo. Compri di questa distratta, sono in casa e ci sentirà domani se Dio vuole. Ah, proprio dire, come sta tua madre, bene? Giovanni, sono rientrato poco fa, sembra di sì, dai, sembra di sì. Se non ci dà una regolata però col mangiare, deve stare attenta a mangiare il meno possibile e mettersi a dieta, se no va male. Vabbè, era tutto contraccambiato Gio Marino. Salutone anche a te e buona familiare. A domani, buonanotte, ciao. Ok, ciao.